Radio 24 e Sergio Bonelli editore presentano Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ascensore per l'inferno. Da una storia di Tiziano Sclavi. Regia di Gaetano Cappa. Non mi capita spesso, ma era una di quelle volte. Ero immerso nel buio più cupo, senza rumori, senza niente. Più lontano dello spazio infinito, più profondo dell'oceano. Non c'era altro che nero. Era tutto nulla. Anche io ero nulla. E poi mi risvegliai. Ero disteso su una spiaggia tropicale deserta. Nell'aria un silenzio innaturale. E la sabbia intorno a me era priva di impronte. Non c'erano neanche le mie. Devo essermi addormentato, pensai. Il sole era basso nel cielo, ma non avevo la minima idea di che ora fosse, mattina o sera. Ero molto debole e assetato. Lasciai la spiaggia e mi addentrai nella foresta. L'unica cosa che sapevo era che avevo ricevuto un ordine, quello di presentarmi in tribunale. Ehi, c'è nessuno qui? Niente, neanche un cane, pensai. Neanche un... Giuda ballerino, ma... Non c'erano animali. Nemmeno un uccello, un insetto. Com'era possibile? Ricordai. Ordine perentorio. Presentarsi alle 6, sesto piano, aula 66. Però ero troppo debole. Assetato. Ed ero solo. Poi, all'improvviso, eccolo lì, davanti a me. Un edificio gotico, tenebroso, incombente. In parte inghiottito dalla vegetazione. Salii una scalinata con due giganteschi dragoni di pietra ai lati ed entrai. C'è nessuno? Mi stanno aspettando! Mi chiamo... Dylan Dog. La voce sembrava provenire da un'enorme statua della giustizia che dominava l'intero atrio del tribunale. Aveva i capelli di serpenti, come la medusa. Chi ha parlato? C'è qualcuno allora? Dov'è? Chi è? Non risponderò a nessuna domanda se non in presenza del mio avvocato. Ma... E tutte queste risate? C'è gente allora. Tanta gente. Ma dove... No, scusi, è solo un bug del programma. Ci siamo solo io e lei. E allora mi dica dov'è? Chi è? Si metta quegli occhiali. A terra c'erano degli occhialini di cartone, di quelli che si usano per il 3D. Li infilai e vidi l'ologramma di una bellissima fanciulla sorridente, in divisa da hostess. Purtroppo è in ritardo, Dylan Dog. La sua sentenza è già stata pronunciata. Sentenza? Ma se non so neanche di cosa sono accusato. Non è nelle mie competenze. Io non esisto. Prego, ascensore numero 6. Ah. Ascensore numero 6. Mi ricorda qualcosa. Sesto piano, aula 66. La fessura tra le porte dell'ascensore svanì completamente alla loro chiusura. Mi trovai di fronte a un'unica, compatta, lucidissima superficie che rifletteva e moltiplicava all'infinito la mia immagine esterrefatta. Ma le porte si sono saldate. Dylan Dog, la sua condanna prevede che sia rinchiuso nell'ascensore numero 6, senza cibo e acqua, in completa solitudine finché morte non sopraggiunga. Cosa? No! No! Aspetti! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Sfinito, crollai in lacrime contro la porta. Posai la guancia sulla parete. Le mie mani lasciarono una scia di sangue. Nel tentativo di scavarmi una via di uscita, mi ero spezzato le unghie. Aiuto! Claustrofobia! No! No! Vorrei poter pensare che è un incubo. Invece è vero. Lo so. E ora si spegnerà la luce. No. No. No. Ah! Ah! Mi risvegliai nel mio letto, in un bagno di sudore. Incubo del cavolo. Se avessi i soldi per pagarmi, indagherei. Buongiorno, capo. Il mattino ha l'oro in bocca. Il mattino ha l'oro in bocca. Il mattino ha l'oro in bocca. Il mattino... peccato che sia pomeriggio. Crucio, rispondi tu al telefono, citofono, grammofono. Insomma, pensaci tu. Io faccio una doccia. Un'altra? Ma ne abbiamo già una. Comunque un ufficiale giudiziario ha portato questo. Dopo il salumiere, il droghiere, le varie bollette, ora hai dei conti in sospeso anche con la giustizia. Ma cosa? In nome di sua maestà, il sunnominato Dylan Dog, con ordine perentorio, è convocato in tribunale venerdì 6 ore 6 p.m. sesto piano, aula 66. Il messaggio doveva arrivare da Lucifero in persona. I numeri corrispondevano a quelli del sogno. Doveva esserci un errore. Chiamai subito Block. Se devi pagare un avvocato, puoi chiedere un prestito in banca, ma lì ti danno i soldi solo se riesci a dimostrare di non averne bisogno. Non risponde. Il vecchio ispettore? I sintomi della vecchiaia sono tre. Perdita della memoria. Mi sono dimenticato gli altri due. Convocazione senza motivo. C'è un uomo solo che arranca nel deserto. A un certo punto vede un'oasi lontana. Si volta e dice: «Bah, secondo me è un miraggio, Jack!» Angoscia kafkiana. Per quanti progressi facciano la tecnologia e la scienza, l'intelligenza artificiale non potrà mai battere la stupidità naturale. Grucio, sembri uno zombie poco spiritoso. Ti sei mai chiesto perché gli inglesi misurano tutto in piedi? Beh, misurare da seduti è scomodo. Dai, non è il momento. E poi questa convocazione. Non comprate quadri astratti, fateveli da soli. Grucio, o chiunque tu sia. Tiro avanti, muoio alla giornata. Grucio continuava a blaterare freddure in automatico, lo sguardo fisso nel vuoto, finché la realtà non cominciò a impazzire. Il mio assistente, amico e rompiscatole personale diventò sempre più trasparente e scomparve davanti ai miei occhi, lì, nel nostro soggiorno. Quando il Big Ben suonò le 5:30, mi resi conto che quel giorno era proprio venerdì 6 giugno e che mancava mezz'ora alla convocazione in tribunale. Mi precipitai fuori di casa. Londra era del tutto deserta. Le biciclette erano abbandonate sui marciapiedi, le auto ai lati delle strade con le portiere aperte. Le uniche figure che incontrai erano quattro gentlemen in abito scuro e bombetta, privi di lineamenti, che portavano sulle spalle l'ascensore nel quale mi ero trovato imprigionato nel sogno, come fosse una bara. Lo appoggiarono a terra in verticale, a riflettere la mia immagine. Una parete del monolito si spalancò. Ne uscì un doppio di me stesso dall'aria tormentata e affranta. Scappai col cuore in gola e raggiunsi il tribunale. Fuori c'era una grande statua della giustizia. Questa volta non aveva la testa di Medusa, ma in compenso era bendata. Oddio, non lo so, di solito la giustizia è bendata o è solo la fortuna? Ma in ogni caso qui era bendata. E io ve la sto raccontando come se fosse stata una passeggiata, mentre vi assicuro, ero totalmente in preda al panico. Una volta dentro, eccomi al cospetto di un altro bombetta senza volto, seduto su un altissimo scranno. Lei dunque è un imbianchino? No! Dietro di me si era materializzata una marea di tizi in bombetta. Affollavano tutto l'atrio del tribunale e non ne vedevo la fine. Avevano tutti lo stesso volto, liscio, senza lineamenti, senza occhi, senza bocca. Eppure riuscivano a ridere a crepapelle, tenendosi la pancia dalle risate. Lei che mi chiede se sono un imbianchino, le risate, tutto questo dimostra che è un sogno. Lo deciderà il giudice. Ascensore numero 6, sesto piano... Stanza 66, sì, lo so. Al diavolo voi e il giudice. Io me ne vado. Feci per andarmene. I bombetta si disposero a formare una sorta di labirinto umano, fatto di curve e strettoie, la cui funzione era spingermi esattamente di fronte all'ascensore 66. No! No! No! No! Le porte dell'ascensore si aprirono e i bombetta mi spinsero dentro. Mi ritrovai di nuovo imprigionato in quel cubicolo. E di nuovo si spense la luce. Oh! Ah! Un altro incubo, pensai, riaprendo gli occhi. Mi guardai attorno. Ero sul galeone. Mi sembrava di essere sul ponte del modellino che da un'eternità cercavo di completare. Mancavano assi qua e là, solo uno degli alberi aveva la vela spiegata. Attorno non c'erano che il mare, il cielo stellato e la luna piena che sbucava da dietro una nuvola. Il galeone prese a navigare, per poi sollevarsi in volo. Il mio viaggio si concluse su un molo di legno, aggrappato a un picco roccioso. Il sole stava sorgendo quando il galeone attraccò al pontile, dove mi attendeva una ragazza. Aveva i vestiti mossi dal vento, i capelli neri, gli occhi verdi e le lentiggini. Indossava abiti all'antica, con una gonna che le arrivava ai piedi e un'ampia camicia bianca con le maniche a sbuffo. Ciao, Dylan. Io credo di conoscerti, ma non riesco a ricordare. È come se tu fossi tante persone in una. Forse è proprio così. Sono tutte le ragazze che hai conosciuto. Vieni con me. Tenendoci per mano, imboccammo un viottolo tra gli alberi enormi, abbarbicati lungo il fianco della montagna. Raggiungemmo una radura in cui sorgeva una casetta scavata nella collina. Lei aprì la porta. Sarai stanco? No, io ho solo una gran sete e fame. Dimentica. Ci baciammo e facemmo l'amore dolcemente. Poi restammo a lungo a letto abbracciati. Da una finestra si scorgeva un sentiero che si inerpicava verso un castello lontano. Che cos'è quella rocca lassù? È il tribunale. Ero riuscita a dimenticarmene. Sono stata convocata e nessuno torna mai dal tribunale. Per quando è la convocazione? Oggi, 6 giugno. Piano sesto, aula 66. Alle 6. Anzi, è ora che mi prepari. No. Anche a me piacerebbe non andare, amore mio. Ma è il destino. Non esiste il destino. E se esiste, si sbaglia. Sono io che devo andare. Grazie, Dylan. Ma non è possibile. Non te lo permetterei mai. Le accarezzai il viso e poi il collo. Strinsi il pollice e l'indice ai lati della trachea. Lei rovesciò gli occhi e svenne. Era il gimè, una delle poche mosse di judo che conoscevo, grazie alla quale si bloccano i fasci nervosi e le arterie che dal collo affluiscono al cervello e la persona sviene. Dovevo farlo. Non avrebbe dormito che pochi minuti. Addio, amore mio, pensai. Addio, amori miei. Raggiunsi il castello, isolato sulla cima di una guglia rocciosa e collegato al sentiero da un ponte levatoio. Dall'altro lato c'era l'arco di ingresso, senza battenti, buio e profondo come la gola di un mostro. Un buco nero che inghiottiva tutta la luce attorno. Una volta varcata la soglia, le tenebre mi avvolsero completamente e persi conoscenza. Dylan! Dylan! Sentendomi chiamare mi risvegliai. Mi era sembrata la voce di Block. Ero di nuovo rinchiuso in quel dannato cubicolo dell'ascensore, riflesso sulle sue pareti a specchio. Ma niente era più reale. Tutto era soltanto un sogno. E ripiombai nell'incoscienza e nel nulla. Quando riaprii gli occhi, ero seduto su una poltrona, nello studio di un vecchio amico, il professor Nock, capace di disquisire sulla teoria dei quanti, come al resto del mondo piace dire la sua sulla scomparsa delle mezze stagioni. Ah, lei svegliato si è. Tanto miei discorsi l'annoiano? Professor Nock, Che cosa ci fa nel mio sogno? Interessante questo è. Da quando capita a lei di realtà e sogno confondere? Oggetto di miei studi attuali questo è. Io cercando di provare sto che multidimensionale è struttura di tribunale. Tribunale? Tribunale di Londra, sì. Pensa io che lui passaggio tra fogli di multiverso è. Fogli? Multiverso? Mie parole ripetere, lei smette o no? Come prima dicendo stavo a lei dormito, universo uni, non è, ma multi. Infiniti universi uno sull'altro come fogli di libro, ma fogli io per dire fa, piani geometrici è. Ma... piani geometrici due dimensioni a, no spessore. Così foglio uno solo è, tutte dimensioni qui e ora è, solo che noi non vedere, perché ancora io non sa. Quando sa, io Nobel vince. Ma... altro ma, suo vocabolario limitato e irritante è. Scusi, ma lei dice che i fogli, i piani, non hanno spessore. Beh, per esempio io, che vivo in uno di questi piani, ce l'ho lo spessore. Sono alto 1,85. Ma cosa 1,85 in confronto a infinito è? Zero. Noi due dimensioni a piatti. Torniamo al tribunale. Tra l'altro ci devo andare tra poco. Sono stato convocato per non so che cosa. Un tribunale? Forse passaggio tra piani versi, Tu su ascensore sali e in altro universo ritrovi te, dove magari tu non esisti, quindi non ti ritrovi. Nock si grattò la testa pensieroso e fece una pausa. Questo appunto io ancora provare deve. Io ho preso tutti gli ascensori di tribunale e sempre in questo mondo è. Beh, professore, come sempre parlare con lei è affascinante. Cioè, no, il contrario. Insomma, mi fa molto piacere. Ma devo salutarla. La convocazione è per le 6. Boh, tempo. 6 di pomeriggio di 6 giugno, 32 del mattino di 44 ottembre, essere può. Ma questi altri studi che io conducendo sta. Altro Nobel! Dopo. Complimenti in anticipo. Arrivederci. Arrivederci. Caro vecchio Nock, lui e le sue fantasie, pensai, mentre camminavo verso il maggiolino parcheggiato lì fuori. La mia auto si sollevò in verticale e decollò. Le ruote si ripiegarono come i carrelli di un aereo. Dopodiché, con una virata, l'auto partì verso l'alto. Sotto di me una megalopoli in verticale, a livelli, come si dice in fantascienza. Auto futuristiche solcavano le strade aeree insieme a vecchie carrette come il mio maggiolino. Fusione tra passato e futuro dovunque. Giunto vicino al tribunale, feci una virata e scesi. Ad accogliermi nell'atrio del tribunale c'era una specie di ragazza robot, o un ologramma, o un androide. Niente di troppo umano, insomma. Con un cenno della mano mi indicò la direzione da prendere. Doc? Dylan? Sì, sesto piano, aula 66. Ascensore numero 6. Prego, da quella parte. Non mi sentivo per niente tranquillo. Il mio quinto senso e mezzo iniziava a pizzicare. E a far male. Ancora una volta in un ascensore. Quell'ascensore, con le superfici lucide e compatte che riflettevano all'infinito la mia immagine. Sbalordito, fissavo tutti i miei mille riflessi che d'improvviso iniziarono a parlarmi. Il sesto piano è un universo mortale. Non c'è cibo né acqua. E devi vivere in un cubicolo di 1,50 m di lato. Vivere e morire. Presto! Schiaccia lo stop! No! L'ascensore è già arrivato. È troppo tardi ormai. Mi risvegliai in un pub, seduto al tavolo con l'ispettore Block. Sei giorni. Sei giorni che ti stiamo cercando. Dove sei finito, Dylan? Chissà come stai. Cosa? Ma io sono qui. Ma... all'inizio credevamo a una scappatella d'amore con qualche tua fidanzata, ma Dopo 6 giorni, io non voglio neanche pensarci. Spero solo che tu sia ancora vivo. Adesso basta, vecchio. Io sono qui. Perfino Crucio non fa più battute. I miei dispetti, ispettore. Oh, quasi. Basta! Questa conversazione è assurda. Crucio, diglielo tu che sono qui. Che sono vivo. Comunque poteva almeno lasciarmi la liquidazione prima di sparire. Adesso chi ci pensa a me? A volte mi metto nei suoi panni, sperando che sia vestito, e sento molto la mia mancanza. Siete impazziti! Mi vedete? Mi sentite? Surreale. Tutto questo è surreale. Pronto? Com'è? Dove? Arriviamo. Lo hanno trovato, finalmente. Anche se non sanno se è ancora vivo. Andiamo, Crucio. Anche io non sapevo se ero ancora vivo. Ero in casa mia, in Craven Road 7, ma Block e Crucio non mi avevano visto. Avevo parlato con loro, ma non mi avevano sentito. E anche io non sentivo più la sete e la fame oramai. Mi accasciai sul pavimento, rannicchiato su me stesso. Non sento più niente. Niente. Sto per morire. Se non altro, forse conoscerò il più grande mistero dell'universo. Che cosa c'è di là? O forse no. Non avrò neanche questa consolazione. Non saprò neanche se c'è il niente. Perché anche io sarò niente. Ecco! Cede! È lui! È Dylan Dog! È disidratato! Una soluzione salina, presto! Ha la febbre alta! Quando mi ripresi, in ospedale, ancora intontito e traumatizzato, Block mi raccontò tutto. Sei uscito di casa venerdì 6 giugno, poco dopo le 5. Hai raggiunto il tribunale e hai preso l'ascensore numero 6, che si è bloccato tra il 5° e il 6° piano. Senz'altro devi aver premuto il pulsante d'allarme, ma anche quello era guasto. E devi aver gridato, ma era tardi. Il tribunale stava per svuotarsi. Poi c'è stato il weekend, tutto chiuso. Nessuna delle guardie di sicurezza è passata nei corridoi del 5° e del 6° piano mentre tu gridavi e battevi contro la porta. Lunedì e martedì, un altro fatto banale. Sciopero dei magistrati. Il tribunale è rimasto sbarrato. A questo punto dovevi già essere molto giù di forze, disidratato e affamato. Nemmeno mercoledì qualcuno si è accorto del guasto all'ascensore. Anche questo è abbastanza normale. Nel palazzo ce ne sono 32. A quel punto io, senz'altro, ero già più o meno come mi avevano trovato. Senza più l'energia per gridare o picchiare pugni alle pareti. E arriviamo a ieri, giovedì. Verso le 6, finalmente, un addetto alla manutenzione ha scoperto che l'ascensore numero 6 era bloccato. 6 giorni. Un diluvio di numeri 6. Fossi in te, cambierei la targa al maggiolino. 666. Ma la convocazione... Ah, già, quella. Una multa non pagata di 6 anni fa. Ci ho pensato io. Mi devi 666 sterline e 6 pence, ragazzo. Passai la notte in ospedale. Ero troppo debole e avevo ancora bisogno di cure. L'incubo era finito, eppure, era sembrato tutto così vero. Mi addormentai. E caddi in un sonno profondo, infinito. Il giorno dopo ero pronto a lasciare l'ospedale. Mi si presentò davanti un dottore che assomigliava in maniera impressionante a Xabaras, con capelli e barbetta brizzolata e un sorriso che era quasi un ghigno. No, così non va, signor Dog. Cosa? Ma io sto benissimo. Questo deve dirlo il suo medico. Cioè io. Lei è nelle mie mani, Dylan. Al diavolo! Io me ne vado a casa. Sto benissimo, le ripeto. A parte il mangiare da schifo che date qui. Anzi, adesso scendo, mi faccio una pizza e poi me ne vado a casa. Non senza la cartella di dimissioni, firmata da me. Lei è pazzo. È proprio quello che il pazzo pensa degli altri, sì. Vede? La sua reazione mi dà ragione. Ha ancora bisogno di molte cure, di una terapia intensiva. La faccio trasferire in un reparto adatto. Portatelo al sesto piano, stanza 66. Sì, dottore. Potete immaginare la mia reazione quando due energumeni di infermieri per portarmi al sesto piano premettero il pulsante dell'ascensore numero 6. No! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Quando mi ripresi, mi trovavo al centro di un'aula di tribunale demoniaca, incatenato mani e piedi. Davanti a me, sullo scranno del giudice, sedeva un gigantesco diavolo. Aula 66. Caso 666. Doc Dylan. Che il processo abbia inizio. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ascensore per l'inferno. Adattamento radiofonico di Franco Busatta e Gaetano Cappa. Con Davide Capostagno, Alberto Fasoli, Vincenzo Giordano, Alberto Onofrietti, Francesca Perilli, Gualtiero Scola, Massimiliano Speziani e Irene Timpanaro. Tecnico del suono, Paolo Corleoni. Coordinamento di produzione, Guido Scotti. Suono, musica e regia, Gaetano Cappa.